vi facciamo sentire due brevi interventi musicali, perché vogliamo fare un brindisi a Luigi Veronelli, ma anche ad un vignaiolo molto amico della Terra Trema, molto amico di Luigi Veronelli, che è mancato pochi giorni fa, una ventina di giorni fa. Si tratta di Pino Ratto, grazie. E allora abbiamo voluto trovare un vino che potesse conciliare queste due persone così diverse ma così intime, così l'uno legato all'altro, pur avendo gusti musicali molto molto diversi, molto distanti. Veronelli si era rifugiato negli ultimi anni della sua vita perché ormai la vista lo abbandonò sempre di più, si legò molto alla musica e ha trovato in Dvorak, nella Sinfonia del Nuovo Mondo, uno dei suoi elementi di maggior passione, perché sentiva questa musica così moderna, così rivolta verso il futuro, verso il futuro che lui ha sempre guardato come un traguardo inarrivabile, ma sempre da inseguire, perché proprio era una cosa che non bisognava assolutamente mai dimenticare. E quindi ecco, questa passione per questa musica molto espressiva, molto molto comunicativa, molto intima, molto molto legata. E dall'altra parte invece andiamo a cercare un altro pezzo di musica. Avevamo voluto farvi sentire la musica che amava invece questo vignaiolo, questo farmacista di professione e vignaiolo per diletto. Naturalmente la passione lo portava più sul vino che non sulla farmacia di Ovada, ma questa era la musica che lui ascoltava e che lui suonava, perché oltre alla farmacia e oltre al vino amava la musica, era un sassofonista. E quindi ecco, Charlie Parker sarebbe stato certamente il suo idolo, il suo come dire, la sua persona di riferimento, il suo ideale musicale. Allora dovevamo trovare un vino che potesse mettere d'accordo questi due mondi, da una parte Dvorak e dall'altra parte Charlie Parker. Avevamo bisogno di un vino che quindi potesse fare diversi racconti. Veronelli parlava sempre che il vino raccontava, che il vino parlava, che bisognava ascoltare il racconto del vino. E allora ho girato qua in mezzo agli stand della Terra Trema questo pomeriggio per trovare un vino che potesse in qualche modo mettere d'accordo questi due mondi, queste due persone, queste due immagini così diverse. E l'ho trovato in questo vino che ascoltate, che è un nebbiolo però che viene da una terra, come dire, un pochettino in margine, non quella centrale, non viene né da Barolo né da Barbaresco, ma da quella zona marginale delle colline novaresi, quelle parti un pochettino più in disparte. Un vino fatto da due ragazzi giovani che si sono avvicinati al mondo del vino per passione, proprio perché convinti che nel mondo del vino potessero trovare il loro ideale, il loro futuro, il loro gusto della vita. E hanno cominciato quindi a bere tanto vino, e poi a incontrare questo vignaiolo che ormai è arrivato alla fine della sua vita e gli ha in qualche modo dato la sua azienda. Ha detto: andate avanti voi perché io sono vecchio e non ce la faccio più, voi invece siete giovani con tanta passione, andate avanti. E nasce appunto questo vino così straordinario, perché ha queste note così così schiette, così intime, così vere, come quelle che erano di Luigi Veronelli, così portate alla diffusione proprio del racconto, l'amplificazione del racconto di questo vino. Dall'altra parte invece questi ragazzi più intimi, con questa musica più cerebrale, meno meno spontanee, ma invece con, che ha una fortissima carica comunicativa, sono riusciti quindi a dare a questi gusti classici questa loro interpretazione più, come dire, più spontanea, più viva, più vivace, più naturale. Nasce quindi un vino davvero da un carattere insolito, un carattere così che racchiude la spontaneità, la classicità, gli elementi quindi naturali, gli elementi culturali. Un vino davvero che penso avesse avuto la possibilità di mettere d'accordo due persone così diverse, ma così intime, così legate, così strettamente legate l'una all'altra da amicizia, da stima e da profonda conoscenza delle diverse aspetti della cultura materiale del vino e non soltanto della gastronomia italiana, ma proprio più in generale del saper vivere, del ben vivere, di circondarsi di cose belle, di cibarsi di cose buone e di bere vini buoni. Ecco, tutto ciò è in qualche modo legato alla figura di Veronelli. Veronelli in qualche modo racchiudeva tutti questi elementi con tutti i suoi discepoli vignaioli che l'hanno seguito in tutte le sue fasi della sua vita e noi che molto molto umilmente ne siamo in qualche modo gli ultimi testimoni di una sua percorso e di una sua esperienza totale, di una sua esperienza così invasiva che ci ha letteralmente segnato. A Luigi Veronelli e anche a Pino Ratto. Bene, io direi di lasciarvi ritornare comodamente agli assaggi, più o meno comodamente, viste il numero elevato di persone che immagino ci sia nel salone. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito chi volesse acquistare pastiche a rivolgersi al tavolino all'uscita. Grazie davvero.